Davanti a voi c'è una porta chiusa a chiave. Forse conduce alla cabina del capitano, ma la serratura è protetta da una tastiera enigmatica, composta da tasti numerati da 1 a 10. Per aprirla, un indizio è inciso sopra la tastiera. Se un numero, diviso per 2, non lascia resto, il tasto corrispondente è da schiacciare. Altrimenti, se il numero diviso per 2 lascia un resto diverso da 0, il tasto corrispondente non va schiacciato. Quale tipologia di numeri, se divisa per 2, non lascia resto?